questo mi sembra che sono i termini del libro attuale, mi che si è menzionato, tu hai detto che la anche per te, ma i termini di, le di alle pro, ma anche di quelli di parlo, per me mi sa che è il termine che è un po' più grande. Thank you.